Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete che ormai in Brianza il mobile conta pochissimo? C'era una volta il mito del mobiliere brianzolo e Brianza era sinonimo del mobile, ma questo è un luogo comune totalmente superato. La Brianza vive in primo luogo di meccanica ed elettronica, poi di chimica e poi c'è il mobile che vale meno del 10%, quindi dire Brianza e dire mobile è sbagliato, perché l'industria del mobile è andata moltissimo in crisi a causa della concorrenza di IKEA e soprattutto a causa del fatto che non si costruisce più, inoltre c'è stata la recessione. Però in Brianza c'è una cosa, un fenomeno importante che sta crescendo e che testimonia il nostro valore aggiunto, che è quello del design. C'è una sorta di piccolo distretto del design che ha radici storiche antiche e che cresce giorno per giorno. E noi abbiamo qui in questa puntata uno dei suoi esponenti più illustri, cioè Gianni Caimi, di un'azienda che si chiama Caimi Brevetti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la Caimi Brevetti fa un sacco di oggetti che ci circondano. Quando io sono entrato qui al Sole 24 Ore con lui, non la finiva più di indicarmi: ah, questo l'ho disegnato io, quest'altro l'ho disegnato io, questo qui e questo di qua. In effetti, per esempio, loro sono nati nel 1949 ad opera di suo padre Renato, e suo padre Renato è il disegnatore e l'inventore della schiscetta, il mitico attrezzo per tenere caldo il cibo quando ancora nel dopoguerra non esistevano le messe aziendali, oppure il tap stap, quel tappo che in plastica e metallo e apre le bottiglie e poi si mette sopra per chiuderle, o il dondolino, il mitico posacenere degli anni 60 che dondolava, o anche quei posaceneri che ci sono ancora adesso, che tu schiacci un pulsante e inghiotte la cenere e così non puzza. Tutto questo nell'ambito di un contesto brianzolo dove l'azienda trae alimento dal suo territorio. Ora chiedo a lui: che cos'è il design? Non è una domanda semplice. Il design è forse quello che ci permette attualmente di bypassare quel problema che mi stava dicendo prima, ovvero la diminuzione della produzione di mobili. È vero che noi abbiamo IKEA, è vero che possiamo avere mobili importati dalla Cina o da altri mercati dove i costi del lavoro è minore del nostro, però il design, ovvero il gusto applicato alla produzione, alle aziende, ai prodotti, è una cosa che non si può acquistare e non si può importare. Ecco, c'è un premio che si chiama Compasso d'Oro, che è un premio dell'ADI, l'Associazione Designer Italiani, è un premio che ha inventato Gio Ponti e voi l'avete appena vinto. Perché? Noi abbiamo appena vinto il Compasso d'Oro e con un certo orgoglio posso dire che è la seconda volta che lo vinciamo. Per quale prodotto? E l'abbiamo vinto per un pannello fonoassorbente che si chiama Flap, disegnato da Francesco e Alberto Meda, e sono pannelli che contribuiscono a ridurre quel rumore fastidioso che sente negli open space, nelle grandi sale. Ecco, tra l'altro quel pannello, che è molto bello da vedere ed è rosso, è una delle cose che mentre entravamo qui lui mi faceva vedere che c'è proprio al Sole 24 Ore, perché l'ingresso che abbiamo qui al Sole in via Monterosa c'è una gigantesca sala, una hall dove se uno si vuole appartare per tra l'altro una hall che è condivisa anche con altre aziende, se uno si vuole appartare per parlare non ci riuscirebbe se non ci fossero questi pannelli che creano delle isole, sono molto sottili. Io li ho molto apprezzati questi pannelli perché a me personalmente è capitato di lavorare in open space, e l'open space, tra mancanza della privacy, reciproco controllo e casino, è una delle cose che più abbassano la qualità del lavoro e soprattutto più abbassano la produttività del lavoro. Il lavoratore rende meno nell'open space, eppure con questi pannelli che sono pure anche belli è possibile isolarsi. Qui ci sono delle specie di isole qui al Sole 24 Ore dove uno c'ha il sedile per sedersi, il tavolino, il pannello, e veramente non si sente niente. Sono belli e sono stati anche premiati. Con tutto ciò non è che il signor Caimi ha una convenzione con Sole 24 Ore, noi l'abbiamo invitato qui perché ci fa lo sconto. Io manco lo sapevo, anche perché personalmente confesso una totale ignoranza su questi temi, ma ne parleremo meglio dopo gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Fabbrica 2.4. Allora, rieccoci in linea, parlavamo con Gianni Caimi della Caimi Brevetti, azienda di design che produce accessori e mobili per comunità e uffici, azienda fondata nel 1949 da suo padre Renato e azienda che ci serviva per parlare di come in Brianza, una volta quasi morto il mobile, il futuro sia del design. Comunque voi siete un'azienda di design, fate brevetti, ne abbiamo ricordati prima alcuni, però comunque anche siete un'azienda di produzione, se no non dovreste stare qui, visto che noi ci chiamiamo Fabbrica 2.4. Che cosa producete e perché avete scelto di mantenere la produzione anche se potevate concentrarvi sul puro lavoro intellettuale del design? Beh, mantenere la produzione ci permette di garantire la qualità innanzitutto, quindi progettiamo, idealizziamo, ideiamo i nostri prodotti, però ci occupiamo anche della produzione evidentemente, e il fatto di poter seguire direttamente quello che è la produzione, quello che è il lavoro nostro interno, quello che è il lavoro dei nostri fornitori, che peraltro il 90% dei quali sono in un raggio, noi abbiamo l'azienda Nova Milanese in un raggio di 30 km. Ecco, Nova Milanese si chiama Nova Milanese ma è a Monza e Brianza, in provincia di Monza e Brianza. E ci parli un po' del rapporto che c'è col territorio e di che cosa significa per voi essere in Brianza? Beh, essere in Brianza per noi è fondamentale, perché la Brianza ha la cultura della qualità, la cultura della produzione, la cultura anche del design. Nova è sul limitare tra il milanese e la Brianza, forse noi come azienda abbiamo preso da Milano abbiamo preso la visione e dalla Brianza abbiamo preso la capacità di fare e la concretezza. Ho capito. E tra l'altro adesso alla triennale che è dedicata al design industriale, alla 21ª triennale, c'è una mostra che si chiama The Sound, e praticamente è una mostra che la triennale dedica a voi. Ce la racconta? Allora, la mostra si chiama Snow Sound, che è il nome della nostra tecnologia. Snow Sound vuol dire il rumore della neve, ed è quello che è il nome che forse riesce a disegnare meno quelle che sono le caratteristiche del nostro prodotto. I nostri sono prodotti fonoassorbenti, ovvero pannelli o tessuti che contribuiscono a ridurre quel rumore fastidioso che ad esempio si può udire in un ristorante quando tutti parlano. Tutti parlano, tutti alzano la voce e cercano di farsi sentire. Ecco, noi riusciamo ad abbattere questo fastidioso fenomeno. Ah, ecco, ma solo con dei pannelli, sennò bisogna fare le pareti fonoassorbenti, che è un altro discorso. No, assolutamente. Allora, forse uno dei plus che abbiamo con i nostri pannelli è che tutto quello che c'è attualmente è di derivazione edile, quindi forti spessori abbisognano di superfici molto vaste. Lei ha visto i nostri pannelli, sì. Sono pannellini da 30 mm di spessore, leggerissimi, che possono essere posizionati a muro, a soffitto. E quindi sono anche un complemento d'arredo. Sono assolutamente un complemento d'arredo. E dunque d'arredo. Se uno può comprarsi uno di questi senza bisogno, cioè come alternativa rispetto alla parete fonoassorbente. Assolutamente, assolutamente. O possono essere utilizzati all'interno di qualsiasi tipologia anche di ambiente. Anche in un'abitazione, e quindi danno anche un vantaggio. No, io glielo dico perché io ho come vicini di casa una felice coppia di ubriaconi che fino alle 4 di notte si ubriacano e urlano. E quindi forse se ne mettessi uno sulla parete che confina con la loro potrei non sentirli più. Ma guardi, a me spiace molto per lei, ma probabilmente bisognerebbe fargli acquistare i suoi vicini. Ah, ecco, è meglio, perché sì. Se le metti dall'altro lato è assorbono peggio. Il rumore nei loro locali. Ah, è peggio che stare vicino a una bettola. Senta, ma avete anche dei nuovi prodotti che state lanciando? Allora, noi stiamo sicuramente sviluppando tutto quello che riguarda la fonoassorbenza, perché l'inquinamento acustico è uno dei problemi che oggi si pongono maggiormente e per le quali necessitano delle soluzioni. E quindi noi stiamo continuando a risolvere questo problema con i nostri pannelli e soprattutto con i nostri tessuti, che saranno il futuro della fonoassorbenza. Io credo che abbiamo bisogno di silenzio, ma soprattutto di intervallo tra un'esperienza e un'altra, tra una parola e un'altra. La pausa vale quanto il suono. Non c'è suono valido che non sia preceduto e succeduto dalla pausa. Sono parole di Gillo Dorfless, in esergo appunto del dépliant che si chiama The Sound, che è stato fatto per la vostra mostra alla Triennale. E anche la frase che viene ripetuta all'interno di un tunnel, che appunto in questa mostra, il tunnel per metà ricoperto da nostri pannelli fonoassorbenti e per metà no, e il visitatore, attraversando questo tunnel, può cogliere la miglioria del suono che si ha passando da un ambiente riverberante ad un ambiente dove il riverbero sonoro viene assorbito. Tra l'altro, l'ultracentenario Gillo Dorfless ha appena partecipato a un vostro evento, no? Sì, Gillo Dorfless è stato in fiera da noi al Salone del Mobile, salone che è andato molto bene per quanto riguarda la nostra produzione. Probabilmente il fatto che siamo un'azienda che comunque riesce a orientare quella che è il design, ci permette di poter anticipare quelle che sono gli orientamenti del design stesso, tant'è che il TG1 ha aperto il suo servizio sul Salone del Mobile dal nostro stand. Ecco, sulla storia della Caimi una breve scheda. Fondata nel 1949 da Renato Caimi, Caimi Brevetti S.P.A. è una delle principali realtà produttive europee design-oriented nel settore dell'arredamento e dei complementi d'arredo per l'ufficio e il contract. Ha sede in provincia di Monza, genera ricavi per circa 10,5 milioni di euro e dà lavoro direttamente a 40 persone, indirettamente a molte di più. Caimi Brevetti è un brand importante nel mondo del design industriale e del mobile. Il grande pubblico forse non conosce il brand, ma sicuramente ricorda alcuni prodotti che hanno segnato la storia del vivere italiano, come la sfiscetta per mantenere caldo il pranzo degli operai quando ancora non esistevano le mense aziendali, il portacenere con il tasto a scomparsa per inghiottire la cenere e ridurre gli odori molesti, il portarifiuti da ufficio creato avvolgendo metallo colorato e traforato, e tanti altri. L'azienda è stata fondata da Renato Caimi, che a tutt'oggi, nonostante le 90 primavere, dà ancora il suo contributo, anche se le redini sono tenute dal figlio Gianni Caimi, amministratore delegato. Inizialmente operava a 360 gradi, adesso si è specializzata in mobili e accessori per uffici e comunità e in pannelli e sistemi fonoassorbenti. Mantiene rigorosamente la produzione in-house perché questo le dà modo di garantire un valore aggiunto fondamentale nella fase di ingegnerizzazione. Pertanto, anche se è famosa per il design, Caimi Brevetti è un'azienda manifatturiera a tutto tondo. I prodotti Caimi Brevetti sono facilmente riconoscibili. Il loro aspetto tecnico, lineare, allo stesso tempo essenziale e raffinato, interpreta pienamente il concetto di industrial design, integrando forma e funzione in un'ottica di riproducibilità seriale basata su valori quali la modularità, la versatilità, la flessibilità ed il sapiente uso dei materiali. La filosofia che da sempre sottende all'attività aziendale è fatta di ricerca, sperimentazione e innovazione e trae ragione dalla vasta esperienza tecnica e tecnologica maturata in oltre 65 anni di storia. Centinaia di prodotti brevettati dall'azienda sono la migliore testimonianza dell'attenzione prestata ai contenuti di originalità e novità dei progetti. Caimi Brevetti gestisce una gamma di prodotti composta da circa 3.000 articoli, con oltre 35.000 componenti, garantendo alla propria clientela tempi di consegna estremamente rapidi. Collabora con i nomi più noti dell'architettura e del design, come Michele De Lucchi, Claudio e Mario Bellini, Alberto e Francesco Meda, Mark Sadler, Lorenzo Damiani. Rieccoci in linea dopo la scheda di Caimi Brevetti. Abbiamo ancora qualche minuto e siccome noi siamo a Fabbrica 2.4 e il dottor Gianni Caimi insiste molto sul concetto di ingegnerizzazione, che è il vero valore aggiunto loro più che il design in se stesso, vorrei che ci spiegasse brevemente di che cosa si tratta e di perché è tanto importante. Beh, l'ingegnerizzazione è fondamentale, anche valendosi di designer tra i più noti al mondo, come facciamo noi in azienda. Il designer propone qualcosa, bello, utile, però deve essere prodotto, e quindi passare dal disegno al pezzo che lei trova sulla scaffalatura di qualche negozio, sottintende il fatto che deve essere ingegnerizzato, ovvero deve essere reso riproducibile, e deve essere reso riproducibile a costi tali che permettano all'azienda di poterlo vendere sul mercato. Ok, perfetto. Direi che è molto interessante questa storia, che la troviamo su quale sito? www.caimi.com. Ringrazio Gianni Caimi e arrivederci alla prossima puntata, sabato ore 14. Grazie. Arrivederci.